male lo sguardo. Dentro la paura sviscerà un effetto, un abbaglio. Timida cornice sopra un altro strato di terra. Aspetterò la luce dentro un mondo fatto di guerra. Aspetterò la luce dentro un mondo fatto di guerra.